e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Altro che ponte qua, noi ci siamo come sempre, delle soldatine pronte. Anche domani. Ecco, esatto, soldatine. Beh, poi tra l'altro domani è anche il giorno giusto per parlare di soldatini, visto che è la festa della liberazione. Siamo qua, siamo per qua. Voi. Allora, i temi di denari, naturalmente, aprirò con uno sguardo, un'analisi a quello che sta accadendo stamattina sui mercati finanziari, che stanno letteralmente brindando al risultato del primo turno delle presidenziali francesi. Insomma, già il mercato lo vede seduto all'Eliseo, Emmanuel Macron. Io direi un attimo, intanto con l'entusiasmo andiamoci cauti. Però il mercato stamattina premia. La borsa francese fa più 4%, Milano più 3,72%, Londra un po' più tranquilla, più 1,60%, anche Francoforte più 2,68%, brinda soprattutto l'euro, brindano gli spread. Faremo un'analisi tra un po' con uno specialista appunto proprio di mercato europeo. Nella seconda parte invece mi dedicherò a quel fatto di cronaca, Nicoletta, del quale tu peraltro ti sei già occupata perché hai intervistato. Perché sono avanti. Perché tu, prima cosa, perché sei più sulla cronaca e sull'attualità di me. Il tema delle malattie professionali, con un dirigente appunto dell'INAIL, faremo l'ABC di tutto quello che deve fare il lavoratore nel caso in cui sia consapevole che venga colpito da un problema di questo tipo, quali sono le procedure da seguire, le tutele che garantisce l'INAIL. E questa è la mia, la mia ricetta sommario. Del giorno. A proposito di ricetta, andremo proprio anche in cucina per così tradurre il nostro posto preferito. Questa atmosfera che si Eccolo, sta respirando. Dopo attenzione. Le lezioni francesi, vediamo, cerchiamo di tradurla in un piatto con dei sapori, dei contrasti. Baguette, brioche e che cos'altro? Ci faremo aiutare da un chef un grande super amico stellato, di Cuore e Denari, amico esatto. di Deborah, che poi no. è diventato un po' di ma traverso no, amico ma... anche mio, perché noi condividiamo tutto. Scusa, con tutti quelli che mi hai fatto conoscere tu, almeno un attimo al contrario. Certo, è una restituzione. Grazie. Mentre nella parte di Cuore tu parli di malattie professionali, io sì. parlo di quando ci facciamo male e non siamo al lavoro. Magari stiamo cercando di investire in salute, quindi ci dedichiamo a uno sport, al nostro sport preferito, però a volte tutto questo non produce guadagni ma danni. E allora oggi, e poi è la giornata ideale, lunedì, il lamento dello sportivo, iniziate pure a lamentarvi, chissà che qualcuno di voi approfittando del weekend si sia dedicato alla sua attività sportiva preferita, inforcato alla bici, andato in mountain tempo, bike, andato raccontatecelo, e intanto noi raccoglieremo i vostri lamenti perché vi vogliamo assolutamente, come si dice, in gamba. Allora 800 24 00 24, un numero che potete anche comporre perché oggi si apre la giornata, la settimana, scusa, europea delle vaccinazioni, e oggi è la giornata della meningite, quindi che parola c'è un calda caso, che hai detto. Un paese bollente, e però insomma ne parleremo Benissimo. Con la professoressa Esposito. Potete che cosa intervenire? Dobbiamo dirvi di più? Esatto, che magari c'è il 349-238-6666, se invece di chiamarci e farci compagnia in diretta ce la volete fare o con gli sms o con WhatsApp, siamo anche oggi a vostra disposizione. Anche perché c'è Filippa Oreggi oggi in regia, la parte là, tecnica. Non mi dire quindi... niente, guarda, no, che tu non guardarlo perché no. già ci fa degli strani mi versi. Ha già chiesto, è vero che fai tu Focus Economia stasera? Gli ho detto sì, oggi il turno del mulo mi tocca. Quindi stasera avrò da lamentarmi, alle 18.30 vengo da te per un consulto medico. Va bene. Con tutta la stanchezza del giorno, ma figuriamoci, faccio ben volentieri, intanto partiamo con la nostra rassegna stampa. Allora, nel caso a cui qualcuno la notizia fosse sfuggita, saranno il centrista Emmanuel Macron, già ministro dell'economia, e Marine Le Pen, leader dell'estrema destra del Front National, a contendersi la carica di presidente della Repubblica di Francia nel ballottaggio che si terrà tra due settimane. Questo è il responso del primo turno delle presidenziali che si è tenuto ieri, con una grandissima affluenza peraltro di elettori ai seggi francesi. La reazione dei mercati, il tema dal quale partiamo questa mattina. Ecco la situazione: Parigi più 4,10%, Francoforte più 2,66%, Londra più 1,61%, Milano più 3,68%, peraltro anche Milano brinda a dispetto dello stacco del dividendo che oggi riguarda 7 big quotate, nonostante l'agenzia di rating Fitch abbia tagliato il rating dell'Italia venerdì scorso, portandolo appunto a tripla B da tripla B più, quindi il giudizio sui titoli di debito della Repubblica Italiana viene penalizzato. Altra reazione vistosissima: l'euro è volato a 1,0856 sul dollaro, in realtà ieri sera nelle prime battute era a 1,09, e poi abbiamo avuto una violenta discesa, notizia positiva, degli spread fra l'OAT e il Bund, il titolo di Stato francese e il decennale appunto tedesco, ma anche quello italiano ha beneficiato di tutta questa ondata di euforia. Cosa vuol dire? Ma è possibile che il mercato veda già Macron seduto all'Eliseo? Lo chiediamo a Corrado Cominotto, responsabile delle gestioni azionarie dell'asset management di Banca Generali, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sale operative stamattina, letteralmente in fibrillazione, grande ondata di ottimismo, dicevamo. Cominotto, ma non è un po' prematuro scommettere che Macron si siederà all'Eliseo, anche se ha già l'appoggio espresso dai candidati battuti ieri al turno? Parigi è scattata, dicevamo, del 4%, sta vantando la migliore prestazione europea, stanno andando molto bene tutti gli altri indici. Cosa c'è dietro a tutta questa euforia? Dietro tutta questa euforia c'è che è cambiata un po' la situazione rispetto, sicuramente settimana scorsa, ma rispetto a fine 2016. Noi dobbiamo distinguere l'aspetto politico dall'aspetto economico. Abbiamo un aspetto economico che ormai da molti mesi incoraggiante, con crescita del prodotto interno lordo in salita, tasso di disoccupazione anche europeo in discesa. Abbiamo fino ad oggi ancora in alcuni casi l'aspetto politico che dà volatilità. La data con Brexit, la data con Trump, come dicevamo fino all'anno scorso, però ci sono delle novità dal 2017. Dal 2017 le novità sono il voto in Olanda, che non è stato un voto di protesta, ma è stato un voto di unione, che è stato accolto molto bene dai mercati e anche, devo dire, dalla popolazione locale, in cui non si sono viste quindi manifestazioni come abbiamo visto per i due eventi a cui accennavamo. E c'è stato ieri in Francia, in cui anche qua la Le Pen, è vero che, come era prevedibile, è passata al secondo turno, ma l'altro candidato è nettamente favorito. Quindi è la seconda volta consecutiva che, tra l'altro, all'interno dell'Europa vediamo un voto di unione e non un voto di disunione come abbiamo visto negli Stati Uniti e in Inghilterra. È vero che il secondo turno non c'è ancora stato, però è realistico pensare che dovrebbe favorire il candidato più moderato. Investitori in qualche maniera forse un po' più propensi ad un atteggiamento di responsabilità, meno condizionati dall'emotività. Detto questo, tornando per un attimo alla seduta di stamattina, do solamente un flash sui migliori titoli di Piazza Affari. Unicredit fa più 10%. Queste situazioni peraltro hanno dell'incredibile, perché sono le stesse banche, queste che stamattina volano a Milano, che registravano prestazioni altalenanti fino a venerdì scorso. Unicredit, lo ricordiamo per esempio, ha fatto adesso un aumento di capitale gigantesco, ha delle perdite gigantesche, eppure oggi, sulla scia del risultato elettorale francese peraltro ancora parziale, sta volando. UbiBanca più 7, Intesa San Paolo più 6,5, Banco BPM più 5,5, insomma è un quadro estremamente positivo. L'unica banca sulla parità è Fineco, che stamattina stacca il dividendo. Gli altri titoli che staccano la cedola oggi sono Eni, Ferrari, Banca Mediolanum, Case New Holland Industrial, Prismian e Recordati. Cominotto, un altro tema interessante è quello dello stato di salute dell'economia europea, verso la quale stanno ricominciando a riportare interesse gli investitori americani. So che questa è una tendenza che state notando da un po' e che probabilmente viene un po' rafforzata anche alla luce di questo, come dicevo prima, parziale risultato francese. Vero, do un dato solo che secondo me è il più rappresentativo: la disoccupazione in Europa è al 9,5%, la disoccupazione media, che è sostanzialmente in linea con la disoccupazione che c'è stata dalla data dell'introduzione dell'euro, dal 1999, quindi siamo ormai distanti da quel 12% che avevamo nel pieno della crisi. E questi dati macroeconomici buoni che vediamo non li vediamo solo noi, ma li vedono anche gli investitori stranieri, in particolare gli investitori americani, che sono stati per molto tempo assenti o presenti in modo moderato sul nostro mercato. L'esercizio che si fa è vedere i flussi sugli ETF, che sono dei titoli che investono su tutti le azioni, su tutte i le cloni, azioni europee, i replicanti degli esatto, indici e non solo. Esattamente, da dove arrivano i flussi su questi ETF e si può notare come a marzo sia aumentato in modo sensibile, già da inizio anno, ma in particolare a marzo, gli investimenti da parte in particolare degli americani. Si sono calmati un po' a ridosso delle elezioni francesi, come era normale aspettarsi, certo, con l'aumento della volatilità, ma è altrettanto realistico pensare che potrebbero riprendere già da oggi pomeriggio, quando si sveglieranno e vedranno i risultati. Magari qualcuno si è alzato presto e ha già cominciato questa mattina, sì, tra sì, l'altro. Certo. Un'ultima considerazione, un minuto di tempo, come noto, solo per fare una riflessione sugli spread, i differenziali di rendimento fra i titoli di Stato francese-tedesco e italiano-tedesco. Una caduta molto vistosa, mentre il titolo francese alla vigilia delle elezioni era stato abbandonato in misura significativa, ad un certo punto addirittura il differenziale aveva risuperato i 100 punti base, adesso siamo a 48, meno 23% stamattina. Sì, che segnale sì. È? È un segnale sicuramente positivo, anche noi eravamo tornati sopra 200 e attualmente siamo fra 181 e 182, è un segnale che sintetizza un po' quello che vediamo. Tra l'altro, l'altra cosa che si nota è come ci siano vendite significative sul decennale tedesco, che invece aveva raggiunto venerdì i minimi del 2017 con un rendimento dello 0,15. Il decennale sta perdendo circa l'1%, il rendimento risale allo 0,35, che è assolutamente in linea con un ritorno al rischio che è realistico aspettarsi e coerente con quelli che sono stati i risultati elettorali in Francia. Grazie a Corrado Cominotto, Banca Generali, buona giornata. Buongiorno. E buona giornata, presto. Ci fermiamo, andiamo velocemente al traffico, ma rimaniamo in Francia? Sì, andiamo in cucina. Con gusto. Dai. A tra poco. Cuore e denari. E noi sì, ci trasferiamo in cucina proprio per commentare questo risultato elettorale in attesa del ballottaggio. Ci trasferiamo da un amico caro di Deborah, che ormai è diventato anche amico mio e diventerà anche amico vostro, amico di Cuore Tutte Denari. Queste illazioni, chissà Enrico, cosa pensa. Vero? Però non avete così tanti anni di distanza come Macron. Beh, e insomma, Brigitte. Ce ne abbiamo, c'è una decina d'anni meno di me. Ciao Enrico Bartolini, buongiorno, chef stellato del pluristellato del MUDEC all'interno. All'interno del Museo delle Culture di Milano. Allora, ti abbiamo dato, vedi la tua amica che bella sola che ti ha dato, ti abbiamo pensato di far tradurre a te, proprio con la tua creatività, la tua capacità, questa situazione che spesso a parole non si riesce bene a descrivere. Allora, raccontaci con magari con i sapori, con un piatto, con una ricetta, quello che potrebbe essere l'atmosfera di oggi in Francia. È un ballottaggio, quindi una situazione che va descritta profondamente. Il primo punto è la domanda che noi cuochi con un po' di ironia ci si fa sempre: se è meglio un brodo fatto con la gallina vecchia oppure un'insalata fresca. Ai. Anche il rapporto che abbiamo in essere tra Macron, insomma, la sua, che lui dice dovere a lei tutto il successo. Beh, sai che ho letto quest'articolo in cui, beh, allora, gli anni di differenza ci sono, sì. Lei però è una gran bella donna, sì. Era la sua insegnante di amante teatro. Di teatro, e sembra che lei l'abbia invitato a proprio anche fare un lavoro sulla sua voce, perché era un po' troppo sottile, sembra che abbia preso addirittura lezioni per avere la voce un pochino più maschia. Allora, e quindi la gallina vecchia, vedi, alla fine ha le esperienze e ha aiutato il pulcino. Enrico. Sì, comunque è indispensabile per la sua carriera, quanto dice, ne siamo tutti fieri. Però parlavo anche di insalata fresca, c'è un termine francese che mi ricorda troppo qualcosa di interessante che abbiamo in Italia, e parlo della salsa vinaigrette. È un nome così elegante, così romantico come la loro storia d'amore, ma è fatto di ingredienti italiani, se si cerca l'eccellenza. Quindi un po' di viva l'Italia ci va messo anche in questo ballottaggio francese e viene fatto attraverso l'olio extravergine e l'aceto. Qualcuno lo usa balsamico, qualcuno un aceto di vino. L'unico tocco francese che si mette in questa salsa, in realtà, ma non è obbligatorio, è solo una variante, è l'uso della senape, che permette all'olio di emulsionarsi meglio con il liquido, quindi con l'aceto. Quindi oggi tutti ti sentiamo un po' lontano, non è che sei andata anche tu, sei in Francia? No, ci sono stato, ci sarò a metà maggio, insomma mi auguro anche che questi episodi un po' bizzarri legati al terrorismo si calmino. Siamo tutti vicini agli amici francesi. Certo. E sempre di cucina francese ci hanno un po' invaso la carriera, anche l'educazione, nonché ci hanno insegnato un sacco di cose. Mi chiedevo se tra i termini francesi più toccanti ce ne fosse qualcuno da rivendicare, ma uno in particolare è il soufflé, che non è traducibile, almeno che non si cambi la ricetta. Mm. Invece ci sono delle ricette un po' borderline. Ad esempio? Ad esempio la ratatouille, ma vorrei dire che amo di più la caponata della ratatouille, oppure la bouillabaisse, ma preferisco il cacciucco per la salsa livornese, la zuppa di pesce, la loro bouillabaisse. Quindi e anche tutti i brodetti che si mangiano dalle parti di Deborah, perché... Sì, lì bisogna fare noi un po' di ballottaggio in cucina e rivendicare la nostra personalità. Enrico, quando è che vieni a trovarci in carne e ossa e pentole anche qua o padelle? Guarda, beccarlo è veramente... Ogni telefonata è sono a Dubai, sono a Singapore. Cioè non è che ti dice sono a Canicattì, Lodi o Roma, anche no? Parliamo. C'è un luogo dove sono sempre, che è la cucina, che sia a Dubai o a Milano. Allora comunque te l'allestiamo qua. Glielo allestiremo qui. Perché qua a Cuore di Mari ci sono delle belle sfide. Ti è stato mai proposto di farti ispirare da una situazione politica per creare un piatto, per raccontarlo attraverso? La cucina è fatta di sensazioni, di emozioni, quindi si ricercano un po' ovunque, a volte nelle conversazioni anche culturali, come succede qui al Museo delle Culture, sfilano degli artisti talmente bravi che un tocco di emotività la trasmettono e poi magari riescono a condizionare un piatto. Ma il piatto parte sempre dai buoni ingredienti, da un territorio. La materia Qual prima. È l'ultimo piatto che hai creato, ispirato magari da una conversazione o da un evento che hai Cosa visto? Non che... mi creerà dopo la conversazione con noi stamattina? Non so, oggi esploderà la gallina di creatività. Dopo questa conversazione, ma potrei fare dei bei bignè, perché non mi va di tradurli nel linguaggio toscano, perché da piccolo non so se si può usare un termine un po' più azzardato, ma se mi autorizzate lo dico. Da piccolo, quando andavo in pizzeria, le chiamavano le palle di suo, che è un termine che non si usa. Paragonato all'eleganza del set francese che si chiama profiterole, insomma, qui ci battono 2-0. Vedi? Va bene, Enrico, grazie per essere stato con noi. Buona giornata, un doppio buona abbraccio. Cucina, esatto, ci sentiamo presto. Grazie ad Enrico Bartolini. E allora, e noi usciamo dalla cucina, oggi si apre la settimana europea delle vaccinazioni e oggi in particolare è la giornata mondiale contro la meningite e il Comitato Nazionale contro la Meningite lancia una nuova campagna di informazione e sensibilizzazione contro la meningita. Puoi fare la differenza. Ogni lettera ha un significato, pista previeni, ci sono vaccini efficaci e sicuri per contrastare la meningite, sui quali è possibile informarsi presso il proprio medico per scegliere in modo libero e consapevole se far vaccinare i tuoi figli. U, unisciti al Comitato Nazionale contro la meningite, segnalando, attenzione, i problemi di informazioni presenti sul tuo territorio, ciascuno di noi può fare la sua parte. O, sta per osserva attentamente tuo figlio e i tuoi familiari per riconoscere per tempo i segni della malattia e permettere cure tempestive. I, informati sui rischi e sulle conseguenze dei diversi tipi di meningite, è il primo passo per sconfiggerli. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Susanna Esposito. Buongiorno professoressa. Buongiorno a tutti. Ordinario di pediatria all'Università di Perugia. A proposito di informazioni e di educazione, professoressa, lei si trova a Vienna in un meeting di addetti ai lavori a cui partecipano più di 12.000 tra virologi e microbiologi e proprio oggi lei farà una relazione sulla meningite. In pratica un po' viene a ripassare qua a Cuore Denari. Sicuramente, proprio oggi c'è la giornata mondiale della meningite. Ci terrò a sottolineare quello che anche il logo puoi significa, cioè stare molto attenti a una patologia che ha una serie di manifestazioni cliniche a volte repentine, che si presentano appunto d'improvviso e che possono portare alla morte nel 10% dei casi e a sequele permanenti nel 20-30%. E infatti, come Società Europea di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive, abbiamo steso una linea guida proprio sulla gestione della meningite. Ma il punto fondamentale è la prevenzione. Purtroppo la linea guida serve agli esperti, serve per sottolineare come gestire al meglio situazioni così complicate che si verificano, ma in molti casi, nonostante le modalità di approccio diagnostico e terapeutico più appropriate, la morte può comunque sopraggiungere. E quindi è proprio importante evitare la meningite e prevenirla utilizzando i vaccini che oggi abbiamo, che sono vaccini sicuri ed efficaci, che prevedono uno spettro molto allargato, perché non dimentichiamoci anche che vaccini come l'esavalente e l'antipneumococcico sono dei vaccini comunque contro la meningite, perché l'esavalente previene le meningiti da haemophilus influenzae di tipo B, il vaccino pneumococcico quelle da pneumococco. E poi, quindi in realtà sarebbero 5 i vaccini, non 3 i vaccini contro la meningite, perché oltre a quello BC e al quadrivalente vanno considerati anche questi due. Sicuramente, infatti non dobbiamo mai abbassare la guardia anche con questi vaccini, perché possono prevenire la meningite come tutta una serie di altre malattie. E un tempo alcuni genitori appunto dicevano: mio figlio ha fatto il vaccino contro la meningite, perché si focalizzavano proprio sulle haemophilus influenzae di tipo B. Invece noi oggi abbiamo a disposizione 5 vaccini, i due appunto che ho menzionato e più naturalmente tutti i vaccini contro il meningococco, che hanno delle logiche differenti, la possibilità di prevenire sierogruppi differenti. Per il meningococco B, che è quello entrato in commercio più di recente, l'importanza sta soprattutto nella prevenzione dei bambini più piccoli, e infatti oggi il Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale, appunto pubblicato nel mese di gennaio, lo prevede nel primo anno di vita. Questo è un vaccino che può essere anche somministrato in seguito, ma evidentemente in un'ottica anche di sanità pubblica il rapporto costo-beneficio per la vaccinazione in epoche successive è previsto il pagamento del vaccino. Per quel che riguarda invece il meningococco C, questo è già da alcuni anni inserito nel nostro piano vaccini nel secondo anno di vita. È stato inserito nel nuovo piano un richiamo da prevedersi nell'adolescente e in questo caso un richiamo con la possibilità di coprire un numero di sierogruppi maggiore, quindi non solo il sierogruppo C, ma la CYW, vaccino che sarebbe raccomandato in tutti coloro che fanno dei viaggi all'estero, vero? In paesi più a rischio. Ma diciamo, il viaggio di per sé è da considerare. Perché professoressa italiana. Esposito, la sua voce va e viene, magari riusciamo comunque a raccogliere le informazioni che la professoressa ci ha dato riguardo ai vaccini, magari potete riascoltare alcuni dei suoi interventi a Radio 24 e riprenderemo naturalmente il tema, perché siamo nella settimana europea, per cui torneremo sicuramente a parlarne. Intanto, professoressa Esposito, proviamo a vedere se ci sentiamo un po' meglio. Mi sentite bene adesso? Sì, giusto per un saluto e per una risentirci presto, e buona conferenza viennese. Grazie mille, mi raccomando, vaccinatevi contro la meningite. Il vaccino contro meningococco ACYW è importante non solo per i bambini e i ragazzini, ma anche per gli adulti. Grazie professoressa Esposito, noi andiamo al nostro GR, ritorniamo subito dopo insieme. Sono Enrico Ruggeri, questa settimana storie di grande intensità, il falco e il gabbiano. Johnny Thunders, uno dei precursori del punk, eroe maledetto del rock. E poi voliamo sulle ali di carta per raccontare la storia del dottor Jekyll e del suo terribile alter ego, Mr. Hyde. E poi colpi d'ala verso l'alto e verso il basso di una grande star del cinema, John Travolta. E poi la storia di un misconosciuto eroe che ha fatto sognare la Calabria, Massimo Palanca e i suoi gol. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 su Radio 24, il Falco e il Gabbiano. Q cuore e denari. Il Tribunale di Ivrea riconosce per la prima volta un nesso tra l'uso scorretto del cellulare e il tumore al cervello. Una sentenza di primo grado che per la prima volta mette nero su bianco qualcosa su cui si ragiona ma senza alcuna certezza da tempo. Roberto Romeo ha un neurinoma, un tumore al cervello contratto in forma benigna. Il Tribunale di Ivrea ha condannato l'INAIL ed è la prima volta che accade a corrispondere una rendita vitalizia da malattia professionale. Nessuno dava informazioni del tipo tienilo un po' più lontano, viva voce, usalo poco, telefonate brevi, non c'erano queste avvertenze. Io lo usavo 3 ore al giorno, anche se le normative parlano che intenso è 1 ora al giorno, quindi andavo molto oltre il limite. Allora, quella che avete sentito è la voce del protagonista di questa vicenda. Domani è la festa della Liberazione, ma ci avviciniamo anche al 1° maggio e quindi facciamo una marcia di avvicinamento verso questa festa, proprio riparlando anche noi stamattina di lavoro, con un taglio però legato alla cronaca e non solo. Oggi volevamo ripartire anche noi dalla decisione del giudice del lavoro del Tribunale di Ivrea, che ha condannato, come avete sentito, abbiamo riascoltato alcuni dei telegiornali appunto di questi giorni, ha condannato l'INAIL appunto a corrispondere una rendita vitalizia al dipendente di questa grande azienda di telecomunicazioni, che avete sentito bene qual è, al quale è stato diagnosticato un tumore benigno ma invalidante. Nicoletta, ho detto correttamente? Sì, cioè benigno, perlomeno comunque, riportandolo dalle cronache che abbiamo letto, dopo che per 15 anni, come avete sentito anche dalla sua diretta testimonianza, aveva usato il cellulare per un sacco di ore al giorno, almeno 3, senza protezione. Allora abbiamo pensato di collegarci a questa notizia per approfondire il tema della malattia professionale, raccogliendo in un ABC le informazioni utili, e ci aiuta proprio l'INAIL questa mattina, l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che è l'ente pubblico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Abbiamo con noi la dottoressa Marta Clemente, medico del lavoro e dirigente medico INAIL, che salutiamo e ringraziamo intanto per averci dedicato questa mezza giornata di festa. Dottoressa, buongiorno e grazie. Buongiorno. Allora, naturalmente, come sempre, anche in questo caso, stamattina i microfoni sono aperti ai nostri ascoltatori all'800 24 00 24, se ci volete chiedere qualche informazione su come funziona questa assicurazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro e i lavoratori. È obbligatoria per i datori di lavoro che occupano appunto lavoratori dipendenti nelle attività che la legge individua come rischiose. Allora, dottoressa Clemente, la prima domanda che le voglio fare, a prescindere dalla notizia di cronaca, è proprio capire da lei ad oggi i numeri dell'attività INAIL. Quanti assicurati ha in Italia? Può farci una fotografia con gli elementi più significativi dell'attività dell'istituto? Sì, innanzitutto il numero delle aziende che sono assicurate con noi sono oltre 3 milioni. Per quanto attiene invece i lavoratori che sono assicurati con noi, noi parliamo di oltre 15 milioni di attività, di soggetti assicurati con noi. A questi si aggiungono altri lavoratori che sono lavoratori autonomi o lavoratori che diciamo non hanno un'attività di dipendenza dal quindi non hanno un contratto di dipendenza. Quindi non c'è l'azienda che versa per loro i contributi, sì, per coprire. Sì, ma versano direttamente i contributi. E questi sono i numeri più importanti. Poi ci sono altri numeri, chiaramente, poi a seconda. Mi dica. Un ragionamento interessante che si può fare è quello relativo al cambiamento che ha avuto negli ultimi anni il mercato del lavoro e il mondo del lavoro. Immaginiamo che anche per l'ente prevedere la copertura assicurativa per figure professionali tanto diverse oggi sul mercato, ma anche rispetto al passato, non sia facile, no? Molto diverso assicurare, non lo so, la commessa di un negozio di abbigliamento rispetto ad un cameriere che sicuramente fa per certi versi un'attività più riscosa. O uno che lavora in cucina. L'operaio edile che sale e scende dalle impalcature, un professionista nel campo digitale, un medico, per esempio, che oppure un professionista che abbiamo qui in studio con noi, che magari possiamo salutare, magari sì, vuole intervenire con qualche commento. Il dottor Confalonieri, buongiorno. Eccoci. Buongiorno, ben medico ritrovati sportivo. Tutti. Medico ben sportivo, ritrovati. Che magari ha anche qualcosa di interessante da dire. No, dottoressa Clemente, sicuramente anche l'INAIL deve evolversi da questo punto di vista, monitorando un po' quello che accade nel mondo del lavoro. Ma sicuramente l'INAIL è sempre stato molto attento a tutti i cambiamenti del mondo del lavoro e quindi non è per noi è una funzione costante di attenzione a quelli che sono i rischi nuovi ma anche i rischi passati che si confermano negli ultimi anni. Quindi diciamo che per noi dal punto di vista assicurativo vengono tutelati tutti i rischi presenti nel mondo del lavoro, e quindi un soggetto è la tutela assicurativa, diciamo il soggetto è assicurato per quanto attiene il rischio di avere un infortunio o di contrarre una malattia professionale. Questo è un po' il discorso che deve essere un po' da cardine per tutte le situazioni. Sicuramente quello che varia è il pagamento del premio, certo. Cioè noi funzioniamo come un'assicurazione, ci distinguiamo da un'assicurazione normale per varie attività. Noi non abbiamo soltanto un'attività di indennitaria, cioè noi non paghiamo soltanto delle prestazioni, ma diamo delle prestazioni aggiuntive che sono quelle sanitarie e, cosa più importante, indipendentemente dal pagamento del premio assicurativo, esiste l'automaticità delle prestazioni, che si intende il fatto che comunque il lavoratore viene comunque indennizzato una volta che viene riconosciuto un infortunio o una malattia professionale, anche se il datore di lavoro, questo chiaramente nel caso in cui quell'attività lavorativa era comunque, per quell'attività lavorativa era prevista l'assicurazione. Certo, no, in realtà io la interrompevo solo per ricordare che tra i compiti più importanti dell'INAIL c'è anche quello di fare attività preventiva con l'obiettivo di ridurre il fenomeno infortunistico in Italia, no, dottoressa? Sì, noi in realtà facciamo un'attività di supporto, comunque diamo delle linee guida, abbiamo un'attività anche di ricerca in questo mondo che riguarda l'attività, la prevenzione. E sicuramente diamo anche un supporto di natura economica a tutte le aziende, possono avere un supporto di natura economica per fornire dei miglioramenti, certo, nell'ambito della prevenzione. Quindi c'è anche un sostenimento di natura economica. Allora, intanto vedo già degli ascoltatori pronti sorridere la dottoressa Clemente, dice: me l'aspettavo, certo. Siamo venute per voi perché il tema è caldo, perché sono tanti gli assicurati, 15 milioni di lavoratori dipendenti, ma e poi un tutto unico il mondo... numero verde oggi. Brava. 800 24 00 24, certo. Oppure anche WhatsApp. E vocali 349 238 6666. Brava. Beh, no, perché tra l'altro molti ascoltatori, come insomma stamattina, raccomandate anche di usare un po' meno il telefono e poi continuate ad invitarci a chiamare, e quindi usate WhatsApp se non volete tenere il telefono appoggiato all'orecchio. Detto questo, non è, immagino, la telefonata al numero verde. Diteci di Radio come 24. Lo usate anche, esatto, il telefono. No, c'è qualcuno che proprio vuole dirlo, sì, effettivamente. Allora mi taccio. No, c'era per esempio Augusto, adesso magari lo peschiamo. Detto questo, dottoressa Clemente, allora sul sito dell'INAIL voi spiegate molto accuratamente che il compito di questo organismo è quello di tutelare i lavoratori anche a seguito delle continue e recenti innovazioni normative che hanno dato modo, hanno fatto sì che si creasse un sistema integrato di tutela. Ci spiega che cosa vuol dire questa indicazione che troviamo sul sito INAIL? Sì, diciamo non il sistema integrato di tutela, quindi è un po' quello che dicevamo prima. Non ci occupiamo soltanto degli aspetti indennitari e propri dell'assicurazione, che è un po' la missione storica dell'istituto, ma ci occupiamo di altre cose tipo la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento, che sono tutte attività che in qualche modo hanno costruito questo nuovo INAIL negli ultimi 15 anni. E quindi ci occupiamo soprattutto nell'ultimo periodo, ecco, io sono un medico, per cui l'aspetto sanitario è sicuramente quello preminente. Certo. Noi ci occupiamo anche di attività riabilitativa, di cura, e quindi facciamo tutte queste attività insieme al Sistema Sanitario Nazionale, servendoci anche sia di strutture nostre, quindi di ambulatori nostri. Noi abbiamo 200 sedi in giro per l'Italia con più di 130 ambulatori diffusi su tutto il territorio nazionale, e attraverso questi noi facciamo o attività sanitaria diretta nei confronti, quindi ci occupiamo delle prime cure ai lavoratori che si rivolgono a noi nei casi di infortuni o di malattie professionali, oppure abbiamo un'attività di cura che svolgiamo insieme attraverso il Sistema Sanitario Nazionale tramite delle convenzioni con il Sistema Sanitario Nazionale. Un mondo molto articolato, dottoressa Clemente. Sì, è molto articolato e molto complicato, lo immaginiamo. Sembra Anche se diciamo che la vostra attività balza un po' meno alla ribalta della cronaca, se non in casi eccezionali come quello dal quale siamo partiti questa mattina, è l'INPS quello che guadagna più visibilità per tutta una serie di ragioni, ma oggi appunto abbiamo invece l'occasione anche per spiegare quello che fate. Ci dà la definizione di malattia professionale? Ma non esiste una definizione giuridica della malattia professionale. La malattia professionale, noi in buona sostanza possiamo dire qualsiasi malattia professionale, qualsiasi malattia che un lavoratore ha può essere messa in relazione con l'attività lavorativa. Nel momento in cui viene dimostrato questo rapporto tra l'attività lavorativa e la malattia, cioè nel momento in cui viene validato da noi questo rapporto, la malattia può essere ritenuta professionale. In realtà esiste un sistema che facilita il riconoscimento delle malattie professionali e questo è nel testo unico INAIL, che è quello che è un testo che dura ormai da diversi anni, anche se ha subito delle modifiche dovute all'evoluzione normativa. Esiste una distinzione tra le malattie professionali tabellate e le malattie professionali non tabellate. Che cosa significa questo? Che nelle malattie professionali tabellate, cioè che sono contenute in queste tabelle che sono allegate al DPR del 65, queste malattie professionali possono un soggetto che ha questa malattia, che ha svolto quelle lavorazioni che sono contenute in questa tabella, ha il percorso facilitato. Questo è un po' il discorso. Diversamente, qualsiasi altro quadro morboso può essere messo in relazione con l'attività lavorativa e noi aiutiamo il lavoratore a dimostrare questo nesso. C'è un'istruttoria un pochino più complessa rispetto a quelle malattie appunto che sono invece identificabili nell'ambito del sistema tabellare. C'è anche poi una pronuncia, una sentenza della Corte Costituzionale che ha introdotto nella legislazione il sistema misto, quindi un mix fra... Il sistema misto è proprio questo, la possibilità di avere un doppio canale, da una parte le malattie per le quali vige, si dice, una presunzione legale d'origine e quelle per le quali il lavoratore ne deve dimostrare l'origine professionale. Questo è il sistema misto. Mm-hmm. Che però il risultato qual è? È quello che qualsiasi quadro morboso può essere riconosciuto come malattia professionale. Questo è un po' la sintesi del discorso. Certo. Queste tabelle, dottoressa Clemente, vengono aggiornate periodicamente anche in virtù del ragionamento che facevamo prima relativo al cambiamento nel panorama appunto delle professioni. Oppure no, insomma, c'è una manutenzione? Sì, esiste una. No, diciamo che l'ultimo decreto è un decreto in cui sono contenute le nuove tabelle, è un decreto del 2008. Attualmente è in corso una rivisitazione delle tabelle e c'è una commissione costituita ad hoc che vede che è rappresentata da tutte le istituzioni nazionali. E quindi all'interno di questa commissione, chiaramente alla luce dei dati scientifici più accreditati, saranno poi modificate queste tabelle. Dobbiamo dire che è proprio la definizione di tabella. La tabella è basata proprio sui dati, viene costruita proprio sui dati scientifici più recenti. Sulla base di questi dati vengono inserite mano a mano le nuove malattie professionali o modificate quelle che sono già previste all'interno della tabella. Allora, andiamo un po' alle domande che ci stanno arrivando dagli ascoltatori e che attengono proprio a ciò che deve fare un lavoratore nel caso in cui abbia evidenza del fatto che abbia contratto una malattia di natura professionale, per cui chiaramente chiede sostegno all'INAIL, che poi a sua volta erogherà determinate appunto prestazioni in questi casi che devono essere ovviamente riconosciuti. Qual è l'ABC di quello che deve fare il lavoratore? Immagina appunto, prima lei ci diceva, la distinzione tra le tabellari e non tabellari e quindi situazioni più o meno complicate, ammettendo di avere una situazione facilmente dimostrabile, dottoressa Clemente, cosa deve fare il lavoratore? Deve bussare alla porta del datore di lavoro? Deve venire direttamente all'INAIL? Qual è l'istruttoria? No, in realtà il lavoratore si deve rivolgere al proprio medico di fiducia, che può essere un qualsiasi medico, può essere il medico di famiglia, può essere il medico dell'ospedale, può essere il medico di un patronato, può essere qualsiasi qualsiasi medico che possa fare una diagnosi. Nel momento in cui viene fatta una diagnosi, la norma prevede appunto che nel momento in cui viene fatta una diagnosi questo certificato venga poi inviato all'INAIL. Esiste una, chiaramente come per le denunce per i datori di lavoro, esiste noi forniamo sulla nostra piattaforma la possibilità direttamente ai medici di compilare il certificato medico. Tra l'altro proprio recentemente è stata fatta una modifica per semplificare queste attività e quindi tutti i medici, anzi questo è un invito, tutti i medici che ipotizzano che quella malattia che viene diagnosticata a un loro paziente può essere di natura correlabile all'attività lavorativa che ha svolto quel proprio paziente, possono certificare all'INAIL la malattia professionale e poi sarà cura dell'INAIL di fare tutto quello che è necessario. L'INAIL può anche dire se di il no, lavoratore è d'accordo, perché certo. Comunque, dica, insomma, il tema è che deve essere stabilito il nesso, no? Tra il tipo di lavoro che si fa e la malattia professionale, e la malattia per poi identificarla come professionale. L'INAIL che poi stabilisce chiaramente, ecco, per ottenere le prestazioni, e l'INAIL che poi stabilisce se quella malattia è di origine professionale. Senta, quante prestazioni eroga attualmente l'INAIL? Lei ha anche questo numero, sappiamo che fa il medico naturalmente, quindi non è detto che ce l'abbia, mi viene di chiederlo adesso, perché siccome i numeri degli assistiti, degli assicurati è talmente elevato, quindi c'è una diretta corrispondenza anche. Ma io le posso dire quali sono le malattie professionali che sono denunciate a noi nell'ultimo anno, ecco. Per quanto riguarda le malattie per le quali riceviamo le denunce che arrivano all'INAIL ai fini del riconoscimento come malattia professionale, sono circa 60.000 nell'ultimo anno. C'è stato un notevole incremento negli ultimi anni e la maggior parte di queste malattie sono malattie da sovraccarico biomeccanico. Detto così non significa nulla, detto in maniera semplice sono malattie soprattutto degenerative, a carico del sistema muscolo scheletrico, oppure si tratta di neoplasie. Queste sono un po' le patologie che ci vengono più richieste come ai fini del riconoscimento della natura professionale. Infatti, dottoressa Clemente, un nostro ascoltatore ci ringrazia per l'argomento trattato. Sono un camionista giovane che ha il mal di schiena. Cosa dovrei fare? Quindi anche sicuramente la postura può, e il tipo di lavoro in questo caso, ore e ore alla guida, può in qualche modo provocare, essere un fattore predisponente, dottoressa Clemente, di un disturbo di questo tipo? Beh, innanzitutto bisogna capire perché ha mal di schiena, e questo è il primo problema. Quindi bisogna fare una diagnosi accurata per capire se è semplicemente una lombalgia oppure se effettivamente è dovuto a qualche patologia di natura organica a carico della colonna. Nei camionisti si parla, negli autotrasportatori quello che viene invocato, il rischio è da vibrazioni al corpo intero, che quello, sono le vibrazioni che vengono trasmesse dalla macchina, quindi in questo caso dal camion, al corpo del lavoratore. È chiaro che i nuovi camion sono sicuramente migliori rispetto ai vecchi camion, quindi presumo che magari questo lavoratore faccia anche altre cose, tipo per esempio molto spesso gli autotrasportatori si occupano anche del carico e scarico dei materiali, e non sempre sono supportati dagli ausili tipo il carrello o altri sollevatori o altri ausili meccanici che possono in qualche modo coadiuvare l'attività del lavoratore. E questo impedisce all'INAIL eventualmente di fare riconoscimento della malattia professionale? Una volta che avviene, assolutamente no. Ogni caso è un caso a sé, per cui ogni caso va analizzato, va fatta una diagnosi, va verificata la diagnosi, la correttezza della diagnosi per quanto è possibile, e poi va verificata la storia lavorativa, perché il lavoratore può pensare che magari è questa attività, ma potrebbe essere risalire anche ad attività, attività precedenti che magari il lavoratore. Quindi in genere una volta che arriva il primo certificato all'INAIL, poi il lavoratore viene in qualche modo chiamato a visita, viene visitato dai nostri medici e viene fatta un'accurata anamnesi per risalire a quelli che sono i rischi che possono aver determinato, certo, quella patologia. Allora, Antonella da Teramo voleva raccontarci proprio del fatto che aveva avviato la pratica per il riconoscimento della malattia professionale per il tunnel carpale, non ce l'ha fatta per mancanza di nesso. Antonella, ci scriva perché la dottoressa Clemente ci ha dato la sua disponibilità per fare una veloce, appunto, analisi delle situazioni alle quali non riusciamo a rispondere. Franco da Frosinone, che lì da un po' invece lo sentirei, ma deve essere telegrafico. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io ho già una malattia professionale accertata. Sì. Premetto che faccio l'autista e ho 61 anni. Sì. Faccio l'autista dei mezzi pesanti. Ora, a me mi ha invalidato molto questa, che io sono stato operato all'ernia al disco e ora ho un'altra ernia al disco alla parte sinistra. Però la parte destra mi ha atrofizzato il nervo sciatico e quasi quasi non riesco più a fare neanche il mio lavoro, perché c'ho tutto il piede che non ha più sensibilità. Certo. Il destro è quello del freno e non ho più la sensibilità. Quindi dovrebbe fare, insomma, una sorta di aggiornamento del livello di invalidità che l'INAIL già le riconosce, Franco? Sì, a me già mi ha riconosciuto un 18 punti di invalidità. Franco, guardi, vado subito alla dottoressa Clemente perché devo chiudere. Un primo commento su questa situazione, dottoressa? Ci sono delle situazioni in cui si fa... C'è l'upgrade della malattia, mi verrebbe certo, da dire, in termini finanziari. Certo, chiaramente il lavoratore, una volta che è stata riconosciuta una malattia, può richiedere di essere rivisto negli anni e quindi riesaminato viene poi rivalutata e se è necessario si fa un adeguamento di quella che è la percentuale di danno già riconosciuta. Perché Franco chiedeva: posso fare questa richiesta? Franco, mi pare di sì, perché se la situazione è evidentemente peggiorata ne ha quantomeno il diritto di chiedere di fare ovviamente le visite e fare una prova. Grazie dottoressa Clemente per essere stata con noi. Grazie a lei. Buon lavoro, grazie. Velocemente la borsa e poi andiamo al lamento dello sportivo. Che cos'è che era? Il lamento dello sportivo con Franco Confalonieri. Ma noi avremo la diretta web? Sì, così ve lo vedete, il Confa. Esatto, aspetta che mi levo la mantella. Il famoso Confa. Eccolo qua. Ecco, che borbotta. Vaga come un'anima in pena nei nostri studi, non lo so, guarda. Vuole abbronzato, farsi vedere da dimagrito. Tutti quanto è dimagrito. Sì. Adesso si lamenterà un po' adesso, anche lui. Adesso che si lamenti che racconto la borsa, ma oggi non c'è niente di cui lamentarsi. No, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. E allora, perché noi stiamo chiacchierando con Franco Confalonieri, ma medico certo, sportivo, che si sta lamentando pure lui. Se volete lamentarvi, il lunedì è il mugugno, giorno del mugugno dello sportivo, della domenica o di chi approfitta del weekend per recuperare quello che non è riuscito a fare nella settimana. Non per tutti, naturalmente, sarà stato così ovviamente, ma siccome noi ci teniamo ad avere ascoltatori in forma, in gamba, felici e contenti, noi giochiamo d'anticipo perché uomo avvisato, mezzo salvato. Dottor Confalonieri, intanto bentornato. Buongiorno. Lo sa che siamo in diretta Facebook, per cui aspetta finalmente i nostri ascoltatori lo vedono per bene. Vedono il nostro Confa. Lo sapevo, guarda, una sorpresa. Ecco, è una sorpresa e possiamo prima... Allora, intanto lanciamo il nostro numero verde, certo. 800 24 00 24. Lo lanciamo. Okay, lanciate. 349 238 6666. Fateci vedere che apprezzate queste dirette Facebook. Esatto. Mandateci i vostri... Assolutamente. Vero? E soprattutto, dottor Confalonieri, la vediamo in splendida forma, perché i medici non solo predicano, ma razzolano anche. Qualche volta. Allora, facciamo un piccolo riassunto delle puntate. Dove ci eravamo lasciati? Dalla circonferenza vita ma noi di ci eravamo lasciati 12 chili fa con me, obiettivamente. A un certo punto, giunto in prossimità dei 60 anni con una figlia piccola, ho deciso che non dovevo fare il dietologo solo per gli altri, ma anche per me stesso, e così ho perso 12 kg. E adesso è abbronzato. Che avesse quest'età? Sì. No, non ce li ha ancora. Sì, sì. Avvicinandomi, ma è una marcia ancora piuttosto lunga. Appunto, vabbè, i prossimi 10 saranno. I prossimi due. Va bene, comunque, dottor Confalonieri, quindi lei si sente di caldeggiare questo percorso per tutti coloro che sono ancora un po' indecisi? Mi sento, decidetevi. Mi sento di caldeggiare questo percorso individualizzandolo molto rispetto a quelle che sono le scelte di vita, l'organizzazione della giornata, le scelte etiche, le convinzioni di ciascuno. Questa è proprio una prima keyword, parliamo complicato, che lancio a tutti, cioè scegliete questo percorso di stare meglio, di dimagrire, ma fatelo con un programma tailor-made. Si vede che ho lavorato un po' all'estero negli ultimi mesi, quindi costruito su misura, su quelle che sono le vostre caratteristiche. Cucito addosso. Quello che vi piace mangiare, quello che vi piace fare, come organizzata la vostra giornata e quelle che sono anche le vostre scelte, per esempio di tipo etico. È una scelta che paga. È una scelta che paga e sicuramente vedo Laura Vanossi che è veramente così estasiata dalle sue parole. Ha conquistato anche la Laura Vanossi. Allora, dottor Confalonieri, naturalmente per chi vuole dimagrire, ritornare nel peso forma, la dieta da sola non basta, non basta correggere il nostro stile alimentare, è necessario anche aggiungere un'attività sportiva, muoversi. Innanzitutto iniziare a combattere la sedentarietà e poi fare qualche cosa con gradualità, la parola chiave rimane sempre quella non cambia. Diciamo che muoversi diventa molto importante da un lato per stabilizzare gli effetti di una dieta o di un programma di dimagramento e dall'altro soprattutto perché indubbiamente contribuisce alla perdita di peso in quanto contribuisce all'aumento del consumo calorico. Poi tra parentesi, migliora l'efficienza cardiovascolare e quella muscolare, quindi ci fa stare meglio in un'ottica di benessere globale che è sicuramente importante. Però non sempre quando ci muoviamo poi stiamo bene, perché qualcuno che ci sta ascoltando magari starà facendo i conti con quella sgradevole sensazione che ci fa sentire indolenziti e dolenti. Il classico sono tutto rotto. Anche se i dolori articolari e muscolari possono naturalmente avere tante cause, ma quando arrivano il giorno seguente a quello in cui abbiamo fatto la nostra gita in mountain bike, hanno giocato a calcetto e mi riferisco principalmente a voi uomini, anche se sta iniziando a interessare sempre più donne anche il calcio, oppure la passeggiata, oppure dopo una giornata in cui siete andati in palestra approfittando di avere più tempo a disposizione, eccolo lì. E noi diciamo è l'acido lattico e il dottor Confalonieri dice basta con questo acido lattico, perché? Allora, assolutamente non è l'acido lattico, a parte che con le attività di fitness difficilmente si produce acido lattico. Comunque l'acido lattico nel giro al massimo di 45-60 minuti è completamente smaltito, quindi non c'entra nulla col dolore del giorno dopo. Ma dirò di più, il dolore del giorno dopo tutto sommato non ci deve preoccupare più di tanto, nel senso che il dolore del giorno dopo il più delle volte è fisiologico. Cioè il dolore del giorno dopo è legato al fatto che noi abbiamo fatto attività, abbiamo utilizzato la nostra muscolatura, i nostri muscoli hanno lavorato, lavorando abbiamo avuto quel tipico processo di microdistruzione muscolare e conseguente ricostruzione muscolare, che è un processo sano dal punto di vista fisiologico perché migliora l'efficienza e la forza dei nostri muscoli ed abbiamo il dolore. Quindi un primo messaggio molto pratico. Sì. Se avete male il giorno dopo, soprattutto se un dolore è diffuso o è un dolore soprattutto nei muscoli o nei settori che avete utilizzato per la vostra attività, non preoccupatevi più di tanto, consideratelo un effetto importante dell'allenamento che avete fatto. Diverso sarebbe o sarà il discorso per il dolore che si protrae anche il giorno dopo. E in questi casi però si può intervenire, si può leggere questo segnale per capire qualche cosa di più del nostro stile di vita, di come ci stiamo allenando, di che cosa avremo bisogno per stare meglio. Allora, chiarito che il dolore del giorno dopo il più delle volte è un effetto fisiologico, quindi normale, quindi naturale, di quello che abbiamo fatto, il dolore che si protrae invece può essere legato a un problema specifico, se non a una patologia. E qua va distinto in modo netto il dolore di tipo muscolare dal dolore di tipo articolare. Ecco, non sempre è facile, dottor Confalonieri, capire se è il muscolo a fare male o se è l'articolazione. A volte sembra un dolore che si irradia oppure è sordo, ma non ne capiamo la natura. Come facciamo a fare una sorta di autodiagnosi che a voi non piace ma che a noi piace molto fare? Soprattutto ci può aiutare a mettere in atto degli atteggiamenti che in qualche modo possono salvare la situazione o evitare che peggiori. Dottor Canfalonieri. No, l'autodiagnosi di per sé aiuta anche il medico. Non è vero che non ci piace. Uno capace di fare un'autodiagnosi, quando arriva dal medico, ci arriva soltanto se ha un problema vero, o comunque ci arriva con un'anamnesi che aiuta tantissimo il medico dopo. Quindi io qui spezzo sì, perché adesso oggi vuole essere particolarmente piacione. Ma dottor Canfalonieri, muscoli o articolazioni? Okay, allora, mi dica come faccio a capire. Il tema di fondo è che sarebbe molto facile distinguere tra muscolo e articolazione semplicemente in base alla localizzazione del dolore. Cioè, se il dolore è localizzato laddove ci stanno le ossa, quindi laddove ci sta l'articolazione, il ginocchio, la caviglia, la colonna, l'anca, è un dolore articolare. Sì. Se non è localizzato lì, è un dolore muscolare. Il problema è che molto spesso i dolori coesistono. E certo. Questo per è il tema vero. Per non farci mancare nulla. Quindi non diventa tanto difficile distinguere tra dolore articolare e dolore muscolare, ma diventa difficile capire se il dolore origina a livello articolare e si riflette a livello muscolare, o viceversa, origina a livello muscolare e si riflette a livello articolare. Questo è il vero tema su cui diventa molto difficile capire. Poi, certo. Perché in parole povere io potrei avere un problema articolare per cui utilizzo il muscolo in modo sbagliato e quindi insorge un dolore muscolare riflesso, oppure potrei avere un deficit muscolare, per esempio muscoli con forza diversa, disequilibrio o quant'altro, che si riflette sulla funzionalità articolare e quindi determina un problema articolare. Quindi qua il problema diventa non tanto capire se il dolore è muscolare o articolare, il dolore è a entrambi i livelli, ma capire da dove nasce il dolore, perché poi io dovrò lavorare o sull'articolazione o sul muscolo in funzione della nascita di questo dolore. Allora, mi sono collegato ora, ma qua andiamo al sodo. Se voglio bruciare grassi e stare in forma con il cardiofrequenziometro, dove tengo il range di battito? Ah, siamo cambiato. Sì, perché qua alla fine, dolore o non dolore, quando uno fa attività sportiva vuole alla fine vedere i risultati e quindi avere il muscolo scolpito e soprattutto aumentare quella massa magra che sappiamo muove il nostro metabolismo, perché se rimaniamo senza muscoli il nostro metabolismo rallenta. E poi c'è un'altra domanda, naturalmente, perché siamo su diretta Facebook e gira e rigira, ritorniamo lì. Non solo a come ci si deve muovere, ma anche che cosa si può mangiare, perché Carlo ha già fame e ci scrive: si può dimagrire con la pasta? Allora, prima delle informazioni sul traffico, due flash su queste due richieste che sembrano lontane, ma sono molto attinenti al tema che stiamo trattando, perché molte persone fanno attività sportiva proprio per iniziare a dimagrire e ad affiancare la dieta. Poi ci si appassiona e allora lì dal cuore. Dottor Canfalonieri. Rispondo in modo rapidissimo. Primo ascoltatore, frequenza cardiaca di riferimento. Prenda la frequenza cardiaca a riposo e l'aumenti del 50%. Se ha 70 a riposo, lavori 70 più 35 intorno ai 105 di frequenza cardiaca. Secondo ascoltatore, si dimagrisce molto più facilmente con la pasta. L'importante è mangiare la pasta a mezzogiorno e nella prima metà della giornata. Attiva il metabolismo, la consumiamo, si dimagrisce molto meglio con la pasta che non con l'insalata. Io ho perso 12 kg mangiando 100-120 grammi di pasta, di riso, di farro, di orzo, tutti i mezzogiorni. Mamma mia, magna, però. Adesso iniziate a mettere sull'acqua e dopo le informazioni sul traffico torniamo, chiamiamo di nuovo Enrico Bartolini. Sì, esatto, a cui darà un grazie. Però ha sentito come bravo, farro, orzo, non è che ha fatto, non è solo pasta, ragù. Tutti i giorni diventa un problema, dopo magari ne parliamo. E allora, e voi continuate a lamentarvi, a tra poco. Cuore e denari. Grande sole, piccolo rotondo, esterno, Clyde, un mazzo, flessore, sensore. Allora, oggi volevamo fare un piccolo tagliando. No, voleva sentirla tutta, dottor Confalonieri. Sì, anche perché... Se vuole gliela canto dopo, quando abbiamo finito, oddio, perché sennò Filippo Aurigi no, mi fa correre. No, anche perché sto lanciando delle cose sul dimagramento legate alla musica, che hanno molto successo. Magari dopo, se c'è un ritaglino di tempo, ne parliamo. Ma cosa gli è successo? No, ma guarda, ha sbattuto la testa da qualche parte ultimamente? Lo sai che lui ci ha coltivato e ci ha frequentato molto. E noi l'abbiamo lavorato ai fianchi, come... E guarda un po' di uomo e di medico che bene, mi è arrivato. Allora, vogliamo dire anche la della musica, che, sì, di cui io sono grande sostenitrice. No, ballate. Va a completamento del discorso che si faceva col nostro ascoltatore di prima, che ci chiedeva, diamo una ratio scientifica a quello che dico, che ci chiedeva quale frequenza cardiaca lavorare. Per il dimagramento o per il consumo selettivo dei grassi, c'è un altro sistema molto molto efficace, che è l'alternanza di 20 secondi circa di attività a media intensità con 20 secondi di riposo completo. Allora, se noi prendiamo tutta la musica attualmente più di moda, cioè tutto l'hip hop, tanto per capirci, prendete anche l'ultimo album di Fedez e J-Ax, che io sto utilizzando tantissimo per i miei programmi di dimagramento, e voi utilizzate... Pensavo per i miei ballet, che sono anche un po' balletti, sì, certo. Voi utilizzate coreografie, la parte melodica e poi la parte hip hop, e fate metà della parte melodica lavorando e metà della parte melodica fermi, poi metà della parte hip hop lavorando e metà della parte hip hop fermi, avete già pronta una base per un'attività che potete fare o in palestra o a casa, che risulta efficacissima per il consumo selettivo dei grassi. Ecco, vedi, Fedex. 20 secondi più 20 secondi. Ma lei fa l'hip hop, dottore? Posso dai, a però casa, queste domande. A casa, con mia questa figlia, rivoluzione. E come si veste quando fa hip hop? No, adesso. Cioè, io vorrei anche mi capire. Mi mette in imbarazzo così. No, la in tuta, arrossisco in diretta a Facebook. Allora, no. Non arrossisca. Corrado da Milano e Luca da Padova sono con noi all'800240024. Corrado, buongiorno. Buongiorno, potrebbe essere, come posso dire, il tema per una puntata successiva, perché mi rendo conto che è ampio, però la parola sport fa sempre pensare a competizione e agonismo. Tutti i riferimenti, tutte le attività che vengono offerte durante i weekend, soprattutto perché ora durante la settimana, sono comunque di matrice sportiva, e l'agonismo e la competizione sono fortemente presenti nello svolgimento di queste pratiche. Mi domando, non sarebbe il caso di inquadrare anche al fine della divulgazione quali sono poi in realtà le grandi differenze tra agonismo e pratica e processo? Perché secondo me molto del malessere deriva anche da l'eccessivo agonismo, certo, l'inconsapevole agonismo che si crea in questi eventi, no? In qualche modo che ci si monta la testa. Grazie a Corrado, associo anche la telefonata di Luca da Padova, buongiorno. Buongiorno, ecco. Lei ha esagerato, Luca. Ecco, cado proprio a pennello. Lo so, Corrado ha visto lungo. Ecco. Allora, io da 2 mesi che ho cominciato ad allenarmi in maniera intensa, ho già fatto circa 3 ultramaratone, e mi si è infiammato la parte alta del tendine d'Achille del polpaccio sinistro. Eccolo lì. Ecco, un consiglio. Quanto tempo devo star fermo e se posso utilizzare degli antinfiammatori per accelerare il recupero? Vedi, perché Luca scalpita. Allora, dottor Confalonieri, 2 telefonate, una che anticipa e introdotto l'altra. Si sono perfettamente collegati. Si ci sembra sia una regia dietro. È vero, che regione. Allora, il discorso dell'agonismo. Il problema è che ciascuno deve trovare dentro di sé la motivazione per muoversi. Per qualcuno la competizione, quindi il fatto di mettersi in confronto con gli altri, diventa una motivazione fondamentale. E quindi l'agonismo ha un valore positivo. Naturalmente non bisogna esagerare. Per qualcun altro invece il confronto è con se stessi, con la propria dimensione, col rapporto con il proprio corpo mentre si muove, e quindi non vi è la necessità di agonismo. Quindi vanno bene entrambe le cose, l'importante è capirsi e scegliere attraverso quale strada mettere il proprio corpo in movimento, detto così in parole semplici. Ovviamente, se si sceglie la strada agonistica, bisogna rispettare il famoso principio della gradualità, e quindi non arrivare in 2 mesi all'ultramaratona, se no, come è capitato al nostro ascoltatore, se no sicuramente si si creano quegli effetti negativi dello sport, quale per esempio nel caso specifico l'infiammazione del tendine d'Achille, che è un classico di... del corridore, soprattutto se c'è magari un appoggio non perfettamente corretto, una scarpa studiata che non è la migliore o non c'è un'alternanza fra i diversi terreni in cui si corre. In questo caso consiglio, più che gli antinfiammatori, torno alle vecchie pratiche, il ghiaccio risulta sicuramente più efficace, nel senso ghiaccio per 20 minuti 3-4 volte al giorno, riduce il versamento infiammatorio, riduce la compressione del tendine, riduce il dolore. L'antinfiammatorio, l'antidolorifico, soltanto se il dolore risulta insopportabile, perché è inutile soffrire per nulla, e una ripresa quando il dolore a riposo o nell'attività quotidiana è completamente scomparso, questo è il segno, non è che possiamo stabilire quanto tempo ci vuole, e ovviamente molto graduale, perché se riprende con allenamenti finalizzati all'ultramaratona, inevitabilmente il dolore ricomparirà. Magari prima di riprendere, studiare con un esperto l'appoggio del piede e la scarpa più adatta. Certo, mi sembra proprio molto di buon senso, oltre che con una base scientifica, perché ci sono naturalmente. Ma il buon senso è una cosa importante. Quindi che spesso rispettiamo si i tempi, rispettiamo i tempi del nostro corpo. Ascoltiamo, cioè dietro quella gradualità, esatto. C'è anche rispettare i tempi. E quando la passione per il nostro sport è molto vivace, si tende a bruciare le tappe, però poi alla fine si pagano, per cui è meglio. Io sono un po' olistico in questo. Cioè io... Mi è diventato anche olistico. Stai lì, perché c'è un'altra dalla diretta Facebook, un'altra domanda. Franco, in quanto tempo ha perso peso il dottore? Ah. E un'altra, Rosario, ci scrive: la carnitina aiuta a dimagrire. Allora, qua andiamo, si chiedono anche un po' di scorciatoie. Allora, dottor Confalonieri, a cui abbiamo dedicato tante puntate in questa carnitina. Sì, certo. A quel desiderio, a quella voglia di accelerare, di bruciare i tempi. Allora, il peso l'ho perso in circa 6 mesi, ecco. Quindi diciamo che l'obiettivo massimo di un programma dietologico che porti a una perdita del peso stabile è perdere dai 2-3 kg al mese, oltre non si può andare, se no c'è una perdita di peso che non è di tessuto grasso e soprattutto di tessuto grasso viscerale, e quindi inevitabilmente poi si creano degli squilibri e si recupera il peso. Con gli interessi. Quindi il concetto volta. È un obiettivo da 2-3 kg al mese di tessuto viscerale, magari valutato adesso, esiste la possibilità con l'ecografia di misurare proprio il tessuto grasso profondo e viscerale, di vedere viscerale e superficiale, e di vedere quello che uno sta perdendo. La carnitina indubbiamente è una sostanza che facilita il consumo dei grassi. Diciamo che l'utilizzo della carnitina abbinato alla dieta e abbinato a un programma quali quelli a cui abbiamo accennato, cioè frequenza cardiaca di un certo tipo, 20+20 intervallato sulla base dell'hip hop, può accelerare questa perdita di peso, ma soprattutto un consumo selettivo dei grassi, non tanto la perdita di peso come tale. Riccardo, dalla provincia di Brindisi, chiudiamo in bellezza. Riccardo, buongiorno a lei. Buongiorno. Volevo chiedere al dottor Confalonieri, siccome io mi è stato diagnosticata una discopatia, oltretutto anche una coxartrosi alla gamba sinistra, l'unica attività fisica che mi aiutava a perdere peso e a perdere calorie, a consumare calorie, era qualche modo la corsa o il tapis roulant in palestra. Con questi problemi mi è stato categoricamente sconsigliato di continuare a fare questo genere di attività, per cui per perdere peso volevo in qualche modo capire quale attività fisica mi consiglierebbe. Senza pesare sulle articolazioni, è una bella domanda, perché a volte c'è il desiderio di muoversi ma ci sono degli impedimenti a monte, dottor Confalonieri. Allora, diciamo che qua l'impedimento pesante è la coxartrosi, nel senso che le discopatie, cioè se si fa un'attività di un certo tipo e si riequilibra anche con le ernie, anche con le protrusioni a livello di colonna, si può fare attività. Con la coxartrosi ovviamente diventa molto difficile. Premesso che la perdita di peso si ottiene soprattutto attraverso la dieta e non attraverso l'esercizio fisico, quindi certo, può perderlo con la dieta. Gli consiglierei purtroppo l'attività in acqua, ma non il nuoto, proprio il cammino in acqua. 45-60 minuti di cammino in acqua, cioè in assenza di peso, in assenza di gravità, gli consentirebbero di perdere peso senza gravare sull'anca, tonificando i muscoli. Tonificando i muscoli. A questa attività dedicheremo una puntata. Grazie al dottor Confalonieri. Grazie e complimenti. Voi. Complimenti. Bene. A voi che seguite Cuore Denari anche in questa mezza festa. Domani è festa tutta, ma noi ci siamo lo stesso. E voi anzi, con noi parleremo di tanti bei temi di attualità. Buona giornata, domani.